storie italiane. La teiera. Una volta, in una cucina che sembrava ricca ed elegante, sedeva Timidezza, la teiera. Costosa e delicata, Timidezza era stata creata per stare seduta su di un morbido cuscino ed era sempre stata circondata da tazze scintillanti. Solo la cameriera di rango superiore poteva toccare Timidezza, anche lei con i guanti. Timidezza era una bellissima teiera. Aveva una lunga impugnatura e un beccuccio che era artisticamente sinuoso. Era stata fatta usando l'argilla costosa ed era stata decorata a mano. Era di classe e bellissima. I cucchiai, le padelle, la vecchia scatola di latta, il grande vecchio orologio erano tutti incantati dalla sua bellezza, ma nessuno le faceva i complimenti. Non apprezzavano niente di quello che faceva. Erano segretamente gelosi di lei. La sua bellezza li spaventava. Sapevano che non sarebbero mai stati così perfetti come lei. Ma Timidezza aveva notato un grave difetto in se stessa. Aveva un piccolo graffio sul suo coperchio. Era così piccolo che il suo proprietario non l'aveva nemmeno notato. Ma questo non aveva impedito a Timidezza di sentirsi incompleta. Mentre per il suo proprietario era la teiera più bella, per se stessa era una teiera con un graffio. Oh, posso avere il tuo autografo, per favore? Per favore, basta una goccia di te sulla mia superficie lucida. Non sto facendo cadere nulla. Chi sei tu? Oh, sono il bricco del latte, naturalmente. Il primo si è rotto. Così sono stato fatto su misura per te. Ho sentito la signora dire nel negozio che odierebbe rompere il set. Hanno pagato soldi extra per farmi assomigliare a te. Oh, questo è carino. Ti piace qui allora? Sì, da quando ho sentito la signora parlare non aspettavo altro che vederti. E sono in estasi. Oh, sei così bella. Ah, grazie. Che cosa c'è? Non sono una bella teiera come credi. Sono una teiera con un graffio. Non merito tutti questi complimenti. Un graffio? Sì, sul mio coperchio. Non merito di essere definita perfetta e impeccabile perché non lo sono. Di cosa stai parlando? Sei perfetta! Come perfetta! Tu non capisci. Tutti in questa cucina conoscono il mio difetto e continuano a parlarne. Ascolta. E se cadesse dalla mano del proprietario? Certo che lo farebbe. Non capisco di cosa sia così orgogliosa. Del graffio sul suo coperchio? Ah, è vero. Sono sicura che il graffio è dovuto alla sua arroganza. Ho sentito che lei ha sollevato il collo così in alto e piena di orgoglio che ha urtato contro il lampadario. Che cosa? Com'è possibile? Il lampadario è lassù. No, no, conosco la storia. Stava saltando una volta per andare da qualche parte e il coperchio continuava a sbattere. Tutti le chiesero di rallentare, ma lei non volle ascoltarli e crack, eccolo lì. Voglio dire, dovrebbe essere bella e guardala adesso. Ah, vedi? Hai sentito? Sì, ho sentito le cose senza senso che hanno detto. Sul serio? Hai colpito il candelabro e sei saltata e ti sei rotta il coperchio? Chi stanno prendendo in giro? Non credo sia così che hai ottenuto quel graffio. Come hai fatto, comunque? Io non mi ricordo. Beh, se non ti ricordi, è perché non era importante. Ma non li hai sentiti? Dovrai essere bella e perfetta. È il mio dovere. Non devi essere bella e perfetta. Questo non è il tuo dovere. Queste sono solo chiacchiere da bar. Ascolta, qualcuno ti amerà e qualcuno ti odierà. Decidi su cosa spendere le tue energie. Amare o odiare? Non puoi continuare a preoccuparti di ciò che tutti pensano di te. Devi preoccuparti di ciò che pensi di te stessa. Alla fine, questo è ciò che conta. Proprio in quel momento, Timidezza venne presa dalla cameriera con un guanto bianco, aprì il coperchio e versò dell'acqua calda. A Timidezza piaceva essere riempita di acqua calda, la faceva sentire calda dentro. Ma ogni volta era anche silenziosamente spaventata che il suo graffio divenisse improvvisamente visibile a tutti. Mentre Timidezza era impegnata ad essere cauta per niente, accadde qualcosa di terribile. Quando il suo proprietario entrò e la prese in braccio, non fu abbastanza cauto e fece scivolare Timidezza dalle sue mani. No! Le pentole, i cucchiai, il bricchetto del latte, tutti guardarono con orrore mentre la teiera cadeva tragicamente. E poi... E fu così. Timidezza era a terra. Il suo coperchio era rotto, la sua lunga impugnatura e il suo bellissimo beccuccio giacevano sul pavimento accanto a lei. La bella teiera venne raccolta e portata via. Oh cielo, sapevo che sarebbe successo! È vero, avrebbe dovuto stare più attenta! Sono sicuro che a causa di quel graffio è per questo che non è riuscita a bilanciare se stessa. È vero, sono caduta per il mio difetto. Timidezza non riusciva ad accettare che non c'era niente che avrebbe potuto fare per fermare la caduta. Venne messa in soffitta per giorni. Non aveva idea di cosa il destino avesse in serbo per lei. Timidezza piangeva e piangeva tutto il giorno e tutta la notte. Oh, odio questo posto! Mi manca la cucina! Il morbido guanto bianco, l'acqua calda, il sole, il cuscino, mi manca tutto. Ah, questo è così strano. Quando ero lì, ero costantemente preoccupata di quello che gli altri pensavano di me. Non ricordo di aver goduto del sole. Ricordo di essermi preoccupata che il graffio sul mio coperchio fosse visibile alla luce. Ho passato troppo tempo a sentirmi triste per il piccolo graffio. Qualche giorno dopo, la cameriera entrò con una bella rosa tra le mani. Mise la rosa accanto a Timidezza. La rosa non era stata piantata in un vaso. Invece, le sue radici erano in un panno bianco. Perché sei qui? Sei caduta anche tu? Caduta? Da dove? Sono qui solo per poche ore. Stanno per piantarmi di nuovo. No. Non lo faranno. Anche tu hai difetti come me. Guarda le tue spine. Le mie spine? Le mie spine non sono il mio difetto. Sono una parte di me. Mi amo con le mie spine. Ma com'è possibile? Non puoi amare i tuoi difetti? Per l'ultima volta non sono difetti. Queste spine mi rendono quello che sono. Le persone possono amarmi o odiarmi, ma io amo me stessa. Questo è ciò che conta. Proprio allora, il proprietario arrivò in soffitta per visitare la sua teiera preziosa. Oh, mi sento ancora così triste per te. Non voglio perderti. Cosa farò? Mentre il proprietario si sedette per pensare cosa avrebbe dovuto fare con Timidezza, Timidezza pensò fra sé. Oh, mi ama ancora? Anche ora che sono solo una ciotola? Come ho fatto a non vederlo prima? Non si è mai curato del graffio. Il bricchetto aveva ragione. Qualcuno mi amerà e qualcuno mi odierà. Sono io che posso decidere su cui spendere le mie energie. Per tutto questo tempo ho scelto l'odio, ma non più. Da questo giorno in poi scelgo l'amore. Timidezza finalmente si sentiva più leggera e libera. Si rese conto di essersi eccessivamente preoccupata per cose che non erano sotto il suo controllo. Sospirò e guardò il suo proprietario. Oh, guardalo! Lui è così triste per me. Se non vuole rinunciare a me dopo tutto questo, allora non dovrai arrendermi nemmeno io. Vediamo. Come posso posso aiutarlo. Timidenza ci pensò un attimo e improvvisamente capì qualcosa. La rosa? Ovviamente! Lui può usarmi come vaso per la rosa! Timidezza si spostò rapidamente verso la rosa. Si assicurò che il suo proprietario non la stesse guardando, perché agli umani non era permesso conoscere le vite segrete delle teiere. Si avvicinò molto alla rosa e inclinò leggermente la testa nella sua direzione. Bene, speriamo che lo faccia. Questo dovrebbe dargli l'idea. Quando il proprietario tornò al tavolo, fu confuso nel vedere la sua teiera seduta così vicino alla rosa. Aspetta, sei sempre stata così vicina alla rosa? Non importa, non so ancora cosa fare con... Aspetta, la rosa! Posso usarti come vaso per la mia rosa! Oh, è un'idea geniale! Ah, sono un genio! Ah, sì, giusto. Hai avuto l'idea. Corse con timidezza in una mano e la rosa nell'altra, senza perdere tempo. Prese rapidamente del fango dal giardino e lo mise nella sua teiera. Aggiunse un po' d'acqua e piantò la rosa con molta attenzione. Sembrano magnifiche. Una bella rosa in un bel vaso. Timidezza era la teiera più felice di sempre. Non le importava che fosse rotta o un po' ruvida intorno ai bordi. Amava se stessa in quel modo. Lei godeva della brezza fresca e della luce del sole ogni giorno. Dopo essersi finalmente accettata appieno, si rese conto che non aveva davvero difetti. Non era più una teiera rotta o una teiera con un graffio. Lei era timidezza.